Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera da Maurizio Melis. Il decennio che si sta aprendo, gli anni 20 del XXI secolo, saranno certamente dominati dall'evoluzione tecnologica sempre più rapida, e anche se, come si suol dire, fare previsioni è difficile, soprattutto sul futuro, è abbastanza facile prevedere che tra i trend tecnologici più importanti ci saranno lo sviluppo e la diffusione dell'intelligenza artificiale, le ricerche nel campo delle nanotecnologie che preludono tanto lo sviluppo di nuovi e sorprendenti probabilmente materiali, sia allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici in medicina. Ma sarà anche il decennio del definitivo consolidamento di quella che oggi viene chiamata space economy. Complici numerosi avanzamenti tecnologici, lo spazio ci appare più a portata di mano di quanto sia mai stato. Ecco, ma quel che più conta è che lo spazio sta tornando prepotentemente la ribalta anche quale terreno di sfida tra le grandi potenze mondiali, e così è molto molto probabile che nel corso del prossimo decennio rivedremo gli esseri umani mettere piede sulla Luna. Dei progetti per riportare l'uomo, nonché una donna, almeno una insomma, sulla Luna, parliamo con Umberto Guidoni, che è astronauta con due missioni all'attivo, è stato il primo fra gli astronauti europei a mettere piede nel 2001 sulla Stazione Spaziale Internazionale. Benvenuto Umberto Guidoni. Grazie, grazie. Allora, all'altro capo della linea telefonica con noi c'è anche Maria Giulia Andretta, che è astronoma e storica della scienza di formazione, nonché divulgatrice scientifica di professione, grande amante della Luna in tutti i suoi risvolti. Infatti è autrice di Stregati dalla Luna, che parla della ricerca, diciamo, del sogno del volo spaziale da Giulio Verne fino all'Apollo 11. Benvenuta anche a te, Maria. Grazie, ciao a tutti. Allora, prima domanda secca per Guidoni. Pensi che sarà il decennio buono? Insomma, 40 anni fa avremmo dato per scontato di essere su Marte negli anni 20 del XXI secolo. Allora ti chiedo se almeno sulla Luna ci torneremo davvero questa volta. Ma direi proprio di sì. Diciamo che dal 2020 in poi comincerà davvero una corsa verso la Luna. La NASA si sta già preparando, ormai è quasi pronto il primo prototipo del razzo e della capsula che porterà gli astronauti verso la Luna. E si chiama Orione la capsula, che sarà appunto la capsula che porterà gli astronauti. Che tra l'altro ricorda molto quella della, è un po' più grandicella, ma ricorda molto, vero? Per la forma, sì, per ragioni fisiche, una, no? Una capsula Apollo del XXI secolo, infatti, diciamo, infatti, con la tecnologia del XXI secolo, e avrà un vantaggio in più: sarà riutilizzabile, non sarà utilizzata solo per un viaggio. Questo è molto importante. Certo. Quindi ecco, poi ci sono anche. 2024 è la data probabile per il primo sbarco sulla Luna. Il primo sbarco, il primo ritorno della NASA sulla Luna, perché poi ci sono anche altri soggetti, Guidoni, che sembrano interessati o comunque che puntano alla Luna. Certo, ci sono ovviamente i privati, c'è la Cina che sta anche lei pensando ad andare sulla Luna, ma per la Cina prevedo tempi un pochino più lunghi. Sì. Sicuramente sono in grado di mandare dei robot, per gli uomini credo che ci vorrà ancora un po'. Andretta, fino a pochi anni fa buona parte della comunità scientifica diceva che non c'erano buoni motivi per tornare sulla Luna, dicevano che c'era poco da scoprire perché sapevamo un po' tutto, e che se volevamo fare dei passi avanti bisognava puntare sugli asteroidi e da lì a Marte. Cosa è cambiato negli ultimi anni? Ma diciamo innanzitutto che si è iniziato a parlare concretamente di Artemis proprio trainati dall'onda. È il nome della prossima missione NASA sulla Luna, Artemis, no? Artemis, la sorella di Apollo, certo. Non a caso dea della Luna e della caccia, ha un logo che potrebbe già raccontarci una parte della sua storia. Sarà il programma che, se tutto va bene, nel 2024 ci riporterà sulla Luna. Perché ci torniamo? Perché la Luna può essere non tanto un punto di arrivo quanto un nuovo punto di partenza, non per forza con delle basi stabili sulla Luna, ma l'idea di costruire una stazione spaziale in orbita lunare, quindi sfruttare questo secondo avamposto dell'esplorazione in orbita al nostro satellite, può sicuramente essere un punto di partenza sia per iniziare ad andare sulla Luna più spesso, per starci per permanenze sempre più lunghe, e poi partire partire appunto da questa base lunare per potersi spingere alla volta dell'esplorazione di Marte e quindi poi successivamente degli asteroidi. Ecco, partire dall'orbita lunare ha dei vantaggi evidenti perché ci vuole poca energia, diciamo, per liberarsi dall'attrazione gravitazionale della Luna e quindi si capisce perché abbia senso costruire una specie di stazione spaziale intorno alla Luna e poi ne parliamo. Ecco, ma Guidoni, non è che alla fine il motivo per cui torniamo sulla Luna è che ci siamo resi conto che Marte non è ancora la nostra portata e che dobbiamo fare molta più esperienza prima di pensare di mandare un uomo a 90-100 milioni di chilometri di distanza? Beh, sicuramente c'è anche questa considerazione, l'idea che appunto Marte è comunque 20 o 30 anni nel futuro, mentre la Luna è relativamente vicina sia dal punto di vista proprio dei chilometri, logistico, sia appunto nel poter pianificare la missione nell'arco di qualche anno. Credo che la novità comunque del progetto Artemis rispetto all'Apollo è anche il modo con cui torniamo sulla Luna. Stavolta torniamo in maniera sostenibile, non è più una toccata e fuga come è stata negli anni 60, in cui il vero motivo era sostanzialmente dimostrare la superiorità militare, certo. Sì, degli Stati Uniti rispetto alla Russia, che fino a quel momento aveva bruciato tutte le tappe, ma invece l'idea è quella di cominciare a creare delle infrastrutture e la prima infrastruttura sarà proprio quella di una base in prossimità della Luna, quindi creiamo intanto un punto di rifornimento e una base da cui poi cominciare l'esplorazione della superficie. Ecco, ci ricordi quali sono i passaggi principali del progetto Artemis dal punto di vista proprio di come è costituito, di come è composto il viaggio degli astronauti verso la Luna? Sì, dal punto di vista, diciamo così, dell'architettura non è molto diversa dall'Apollo, certo. Ovviamente con la tecnologia del XXI secolo, quindi c'è un grande razzo vettore che è capace di portare un centinaio di tonnellate in orbita e quindi anche che è capace di lanciare i moduli, per esempio, della stazione da portare verso la Luna, oltre che naturalmente la capsula che porta gli astronauti, e si comincerà facendo un volo di test di questo razzo e della capsula Orione, un volo senza equipaggio. Sì. Questo è relativamente prossimo, sarà il test di tutto il sistema, quindi anche delle capacità di controllo del sistema e di gestione di questa missione lunare, che in fondo, diciamo, le persone che l'hanno gestita ormai non ci sono più, quindi bisogna addestrare una nuova generazione di controllori anche a terra, diciamo, anche del centro di controllo a terra. Poi finalmente arriverà il primo test con la capsula con astronauti a bordo, che ripercorrerà un po' il viaggio dell'Apollo 8, no? Quindi il primo, quello della famosissima fotografia, esatto, no, della Terra che sorge sull'orizzonte della Luna. È il primo sorvolo. Sì. Sarà quindi la circunnavigazione della Luna e poi finalmente cominceranno le missioni per costruire la stazione intorno alla Luna, il Lunar Gateway, che sarà appunto il punto da cui poi scenderà nel 2024 il primo equipaggio che metterà piede sulla Luna. Ecco, Andretta, mi pare che un'altra differenza rispetto però al programma Apollo, che gli astronauti quando arriveranno sulla Luna troveranno lì un po' di roba ad attenderli, no? Ma diciamo, al di là di quello che troveranno, è sempre stata prassi della NASA cercare di fare delle missioni sequenziali, ovvero aggiungere con la missione successiva quel pezzo che può essere una piccola miglioria senza effettivamente strafare. Ciò che aveva caratterizzato i programmi Mercury, Gemini, Apollo era proprio questa eccellente organizzazione che venne fatta negli anni 60 e che sicuramente Artemis riprenderà nel voler anche recuperare parte delle eredità tecnologiche di Apollo. Quello che succederà è che probabilmente l'equipaggio, come detto da Umberto, sarà composto da 4 astronauti e non da 3, quindi questa è già una differenza. Per 4 persone dobbiamo quindi immaginare una capsula più grande e scenderà probabilmente sulla Luna una donna, cosa che si lega anche alla scelta di questo nome, Artemis, certo. Che sicuramente non è stato casuale, però anche guardando il logo, la NASA è molto attenta a queste cose, l'orbita che parte dalla Terra arriva sulla Luna e non torna indietro, quindi l'idea anche a livello simbolico è quello di stiamo tornando sulla Luna, questa volta per restare. Sicuramente sulla Luna verrà portato qualcosa che possa aiutare anche i primi esperimenti di permanenze lunghe, quasi abitazioni sul suolo lunare, non solo sul Gateway. Ci fermiamo solo per pochi secondi e poi torniamo a parlarvi di Luna tra poco. Bentornati a Smart City, stiamo parlando del ritorno alla Luna previsto nel prossimo decennio, nel 2024, la missione Artemis della NASA, almeno queste sono le tempistiche previste, dovrebbe riportare un uomo e una donna sulla Luna a rimettere i piedi sul nostro satellite. Ne stiamo parlando con l'astronauta Umberto Guidoni e con Maria Giulia Andreatta, storica della scienza. Stavamo cercando di raccontare un po' delle differenze che ci sono tra questa missione Artemis, con la quale la NASA nel prossimo decennio punta a riportare l'uomo sulla Luna. Mi pare che tra le differenze, Guidoni, ci sia anche il fatto che gli astronauti troveranno lì probabilmente dei rover già sulla superficie o qualcosa da accogliere, insomma non sarà uno sbarco solitario come è avvenuto coi progetti Apollo. Sì, non solo non sarà uno sbarco solitario, ma sarà uno sbarco preparato con grande cura, nel senso che appunto la costruzione della base cislunare, diciamo del Lunar Gateway, permetterà agli astronauti di fare osservazioni da, diciamo, relativamente vicino e di controllare dei robot sulla superficie lunare e di cominciare già un lavoro di esplorazione, per esempio soprattutto nelle zone polari dove siamo praticamente certi di trovare ghiaccio di acqua, per poter appunto pianificare in grande dettaglio il luogo dove avverrà poi il primo sbarco. Quindi ci sarà un'attività che si svolgerà nei pressi della Luna, sia dal punto di vista diciamo, degli astronauti, sia dal punto di vista delle sonde che verranno mandate sulla superficie lunare, quindi sicuramente sarà un'attività orchestrata in maniera molto più complessa rispetto alle missioni Apollo, che erano appunto studiate per arrivare, lasciare qualche una bandiera e tornare vivi, bandiera, diciamo. Qualche esperimento e riportare indietro qualche chilo di sassi. Questa volta non sarà così, sarà un'attività molto più lunga sia dal punto di vista scientifico, ma anche con l'idea poi di cominciare a vedere di poter utilizzare le risorse sulla superficie. Ma infatti adesso ci arriviamo. Tanto per capirsi, per esempio, il progetto del Gateway, quindi questa piccola stazione spaziale internazionale che orbiterà intorno alla Luna, dovrebbe essere dotato di una sonda robot che da sola porta i campioni di suolo lunare dalla superficie lunare appunto all'orbita e fa avanti e indietro senza doversi affidare degli esseri umani, per capire com'è pensata in modo diverso questa missione. Certo. Dicevi, Umberto, dell'idea, che io devo dire ancora non ho capito quanto sia realistica, di sfruttare anche delle risorse presenti sulla Luna. Questo è anche uno degli obiettivi dei privati, che dicono che nei prossimi 10 anni potrebbero essere pronti a loro volta ad arrivare sulla Luna, magari con qualche turista o per fare delle attività economiche di estrazione di risorse. Quanto è realistico questo scenario? Quanto è lontano? Che cosa realisticamente ci conviene andare a prendere così lontano? Allora, l'acqua può sembrare un elemento strano da andare a cercare sulla Luna quando ce n'è tantissima sulla Terra, ma l'acqua sulla Luna è molto più comoda per chi si trova in, certo, quelle situazioni, chi è nello spazio. Portare da Terra l'acqua ha un costo enorme, certo. È una difficoltà notevole, quindi la possibilità di estrarre acqua, che significa non solo per bere ma anche ossigeno e idrogeno, quindi due elementi fondamentali per il combustibile dei veicoli spaziali, significa poter fare il rifornimento senza dover portarsi appunto dietro un carico molto complesso dalla Terra. Poi sulla Luna sembra che ci siano quantità maggiori, anche se ovviamente non così facile trovarle, però di delle cosiddette terre rare, cioè di quegli elementi che oggi sono molto utilizzati in elettronica e sono rare, come dice appunto la parola, sulla Terra, ma sulla Luna sono un po' meno rare, e quindi potrebbe addirittura diventare conveniente andare a estrarre sulla anche Luna. Anche se bisogna ricordare che è molto costoso, come dire, liberarsi dal pozzo gravitazionale terrestre, quindi andare dalla Terra alla Luna, è molto meno costoso rimandare roba dalla Luna alla Terra. Perché lì... Esatto, soprattutto avendo una base, diciamo, in orbita che può servire da mezzo, diciamo così, per poter arrivare facilmente alla Luna senza dover ogni volta atterrare. Insomma. Certo. Andretta, qualcosa da aggiungere su questo tema? Ma diciamo che è molto interessante il fatto che qualsiasi sia la decisione finale a riguardo, inevitabilmente la legge sarà la prima a doversi allineare a quello che verrà deciso, perché nel 1967 e nel 1979 poi sono stati firmati degli accordi importantissimi, il Trattato sulla Luna e il Trattato sullo Spazio Esterno, che tra i loro punti hanno appunto la necessità che qualsiasi risorsa venga utilizzata sui corpi celesti, Luna inclusa, debba essere per fini di ricerca o comunque debba essere svolta sotto regime internazionale, quindi qualsiasi decisione verrà presa su cosa fare delle risorse lunari dovrà inevitabilmente passare da un aggiornamento della legge, cosa che ci dimostra come il mondo in 50 anni sia cambiato in questo senso in positivo. Ecco, ora non vorrei sbagliarmi, chiedo anche a te Umberto di aiutarmi in questo, ma mi pare che questi trattati dicano che nessuno può possedere un corpo celeste. Non sono così chiari sull'utilizzo delle risorse che eventualmente uno potrebbe trovare in loco. Sì, infatti, è vero che non è esplicitamente vietato, ma non è nemmeno chiaramente spiegato come utilizzarle, quindi chiaramente lì va fatto un lavoro di raffinamento, insomma, di adattarlo alle nuove condizioni. Io credo che un modello possibile potrebbe essere quello dell'Antartide, no? Cioè un terreno su cui chiunque può stabilire delle basi e poi fare ricerca, e nel caso che utilizzi delle risorse, ovviamente le risorse che estrae sono utilizzabili da chi lo fa. È un po' come succede per la pesca negli oceani, no? Fuori delle acque territoriali nessuno può dire che quello è suo, ma il pescato lo può riportare a terra. No, poi mi domando come si fa, ok, diciamo che uno viola le regole, è sulla Luna e sta estraendo qualcosa, e non è molto facile andare lì a fermare le operazioni di scavo. Sì, magari sulla Terra gli possiamo vietare di vendere quello che anche lì è complicato, ma insomma... Andretta, c'è anche un progetto, e qui torna l'Europa, molto presente sulle parti scientifiche, diciamo non sta partecipando a questa corsa però alla Luna, che ha delle motivazioni, abbiamo detto, anche geopolitiche alle spalle, però è dell'ESA, e quindi dell'ente spaziale, dell'Agenzia Spaziale Europea, la proposta di creare un Lunar Village, cioè un insediamento stabile sulla superficie della Luna. Di che cosa si tratta? Ci puoi dire qualcosa? Ma allora, l'idea del Moon Village o del Lunar Village, a seconda di come lo si vuole chiamare, è qualcosa della quale si parlava già nei giornali e nell'attenzione mediatica già durante la prima fase dello sbarco sulla Luna. L'idea è quella di costruire nelle zone polari, soprattutto andando a dare priorità al Polo Sud, un'area nella quale costruire una sorta di serra fatta a pannelli solari, dove poter pensare di iniziare a mandare con continuità dei lander, delle strampanti 3D e dare in questo progetto una sorta di tentativo di colonizzazione del polo sud lunare. L'idea è di usare la regolite, quindi questa polvere finissima che si trova per terra come un cemento per costruirci delle cupole sostanzialmente. Esatto, no? Dalle cupole, ma anche agli strumenti base che potrebbero servire, che quindi non dovrebbero essere portati da casa. Questo sicuramente è una svolta tecnologica molto interessante, perché vuol dire poter realizzare in loco con dei modelli 3D tutto quello che serve, che quindi non c'è bisogno di imbarcare da terra, e non è poco. Guidoni, ma ti sembra uno scenario possibile? Magari qualche turista piacerebbe andarci, no? Sì, questa è l'altra, diciamo, l'altra branca. Anche del... a te che non sei un turista, secondo me piacerebbe andarci. L'altra branca dell'esplorazione della Luna, c'è chi punta decisamente sulla Luna per portarci dei turisti. Il primo è proprio Elon Musk, certo, che ha già, se, almeno secondo quello che ha dichiarato, ha già firmato un contratto. Sì, pare di sì. Anche se è ancora lontano dall'avere un veicolo capace di trasportare un equipaggio intorno alla Luna, però quello potrebbe essere l'altra alternativa, cioè il fatto che i privati utilizzino lo spazio intorno alla Luna per metterci dei veri e propri alberghi lunari. C'è anche la proposta di un modulo gonfiabile, che quindi potrebbe essere un po' più comodo, diciamo così, dei moduli utilizzati per gli astronauti, che non sono proprio il massimo della capienza e dei comfort abitativi. Allora, Andretta, che cosa rappresenta, te lo chiedo perché tu sei autrice di questo libro, Stregati dalla Luna, per l'immaginario popolare la Luna? È ancora un obiettivo così potente come è stato negli anni 60? Rispondo prima alla seconda domanda con un netto sì. Nel senso che l'uomo che raggiunge la Luna è un sogno millenario, cool, è probabilmente antico quanto l'uomo stesso. Il fatto che sia già stato fatto in passato non toglie nulla al ritorno alla Luna, che tra l'altro dobbiamo tenere presente che grazie ai nuovi media, a tutta il nuovo potere dei nuovi media potrà essere seguito in modo partecipato e in modo condiviso, probabilmente ancora di più rispetto a quanto era accaduto negli anni 60. Grazie a Umberto Guidoni, grazie a Maria Giulia Andretta per essere stati con noi. Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao a tutti e ci rivediamo al ritorno lunare. Ci fermiamo qui.